in primo piano. Meditate, gente, meditate. Venerdì 1 luglio, di costi della politica ne parlano anche i giornali, relativi alla manovra. Basta che la prendiate con leggerezza, perché sennò vi arrabbiate tantissimo, ma sentite cosa dicono i giornali dei costi della politica. Tra poco. Sì del governo al decreto sui conti, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Mentre il Corriere della Sera, tre aliquote fiscali, ecco la riforma. Per Repubblica, fisco, tre anni per la riforma. La Stampa, fisco, riforma in tre anni. Il Fatto Quotidiano invece si concentra su Santoro, unico giornale che lo intervista. I politici non mi vogliono, ma torno con la nuova TV. Libero, la casta rinvia i tagli. Questo è il titolo di apertura. Il Giornale, detassati giovani imprenditori. Questi alcuni dei titoli, poi ne vedremo altri nel corso della rassegna stampa. Intanto io voglio partire da un paio di segnalazioni. La prima la troviamo su Repubblica, la Stampa. Vi dedicano una pagina, una vicenda che riguarda molti, molti cittadini italiani. È passata una legge. Niente più figli di serie B. I bimbi nati fuori dalle nozze avranno gli stessi diritti. E la legge riconosce anche il cognome della madre. Beh, Caterina Pasolini ne parla su Repubblica, Paola Simonetti ne scrive sulla Stampa, sotto il titolo Addio figli naturali, saranno tutti uguali, basta discriminazioni, scrive Repubblica, tra figli legittimi e figli naturali, tra chi nasce da una coppia sposata e chi viene al mondo fuori dal matrimonio, d'ora in poi ci saranno solo figli. Tutti finalmente uguali davanti alla legge, con lo stesso diritto ad avere una famiglia completa, con tanto di nonni, zii, la possibilità di ereditare da questi. E c'è poi una nuova certezza per le mamme: se non sono sposate e per prime riconoscono il bambino, il loro cognome resterà al piccolo anche quando il padre, dopo un giorno, un mese o un anno, lo avrà riconosciuto. Insomma, questi sono i punti cardine di questa legge che è stata approvata con voto bipartisan ieri mattina alla Camera, una serie di modifiche al codice civile, questo è tecnicamente. La legge, secondo Repubblica, secondo qualcuno, è considerata anche come il primo passo per il riconoscimento delle coppie di fatto. Sta di fatto che è importante che vengano riconosciuti per questa legge. Basta figli di serie A, figli di serie B, figli sono tutti uguali, sia che siano concepiti all'interno che all'esterno del matrimonio. C'è sulla Stampa un'intervista a Gianetto Regassani, che è il presidente dell'Associazione Matrimonialisti Italiani, parla di 100.000 figli cosiddetti naturali, un termine che già Gassani dice questa cosa di differenza terminologica è uno sconcio, bisogna parlare di figli, punto e basta. I figli naturali sono sottoposti alla giurisdizione del giudice minorile, mentre quello che si occupa del disagio, mentre i legittimi a quella del giudice ordinario. Già questa è una discriminazione, si considera la condizione del bambino nato fuori dal matrimonio come disagiata a prescindere. Ora basta con questa novità di legge. La seconda segnalazione io ve la do dal giornale La Stampa. In realtà sui giornali non c'è, perché è una vicenda clamorosa che è avvenuta nella notte, l'abbiamo sentito anche in apertura di GR24. Pare che la vicenda Strauss-Kahn possa piombare nel complotto vero e proprio. Così titola La Stampa, pagina 18. Strauss-Kahn torna alla tesi del complotto. Un reporter dice: mi dissero a maggio sarà finito. Questo me lo dissero qualche mese prima. Non avevo non avevo dato importanza a questa informazione, ma certo poi quando è stato arrestato sì. Ma quello che pubblica il New York Times, per una volta facciamo una rassegna stampa internazionale, il New York Times oggi è questo: gli inquirenti non credono, pare, a una singola parola di quello che ha detto la cameriera. Sarebbe stata intercettata il giorno dopo al contatto con dei criminali al telefono, telefonata registrata, con la cameriera che dice: quanto mi conviene, cosa me ne viene in tasca se io mento e dico tutto questo? Secondo il New York Times sarebbero delle prove schiaccianti a dimostrare che sarebbe stata tutta una montatura. Non si nega il rapporto sessuale, ma pare un rapporto sessuale consensuale all'interno di quella stanza al Sofitel di New York. Secondo il New York Times addirittura questo potrebbe portare nelle prossime ore, nei prossimi giorni, a una liberazione con scarcerazione e crollo di tutte le accuse nei confronti di Dominique Strauss-Kahn. Staremo a vedere e ci sentiamo tra 6 minuti. in primo piano. 7:34 minuti, allora andiamo a vedere le pieghe della manovra, anche le questioni politiche. Vi annuncio che il Sole 24 Ore, a partire da oggi per 3 giorni, pubblicherà pagine e pagine di dettagli della manovra approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, anche se non è ancora tutto definitivo, perché oggi, come fa sapere il Sole 24 Ore, ci sarà dalle 8 del mattino, e quindi tra poco, il gabinetto del ministro Tremonti si riunirà per chiudere il lavoro sul testo del decreto legge. Il provvedimento è stato approvato comunque ieri dal Consiglio dei Ministri. L'obiettivo è quello di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2014, un obiettivo etico, l'ha definito il ministro dell'economia Tremonti, e che ha detto con una nota: siamo già a 3/4 della strada verso il pareggio di bilancio. Nel decreto sono contenute tutte le norme di aumento delle entrate e di riduzione della spesa pubblica. Allora, le novità sono a 360 gradi, riguardano la previdenza, i ministeri, il turismo, il pubblico impiego, gli enti locali, la cultura. Novità anche per l'ICE, l'Istituto per il Commercio Estero, che passa dallo sviluppo economico sotto il controllo della Farnesina. Tra l'altro, questo è l'unico motivo di vero scontro, secondo quello che racconta la retroscena della politica, che c'è stato ieri in Consiglio dei Ministri, soprattutto tra i ministri romani dello sviluppo economico e il ministro Frattini degli esteri. In ogni caso, via alla manovra da 47 miliardi, così titola pagina 3 il Sole 24 Ore. È confermato che cosa? Beh, il super bollo per le auto di lusso, con lo stesso Berlusconi che è andato in conferenza stampa a dire sì, è vero, non era prevista, addirittura era prevista l'eliminazione del bollo nel nostro programma, ma la crisi in pratica ha portato a questa novità. Allora, Marco Mobili a pagina 3: la tassa sulle transazioni finanziarie dell'1,5 per mille potrebbe uscire definitivamente di scena, così come la tassazione separata del 35% sul trading finanziario sembra essere destinata a trasformarsi solo in una addizionale del 7%. C'è anche un piccolo giallo su questo super bollo, perché Berlusconi l'ha confermato appunto in conferenza, mentre poco prima il sottosegretario all'economia Luigi Casero annunciava che non sarebbe entrato in manovra. Sta di fatto che insomma le limature vengono finite, rifinite oggi stesso, e dovrebbe essere tutto chiaro. Per esempio, tutti i giornali puntano anche sulla questione della riforma fiscale. Come detto, nella delega c'è il concordato preventivo. Dino Pesole ne scrive a pagina 7: la riforma del fisco è da realizzare in 3 anni nel vincolo dell'invarianza dei saldi economici e finanziari. L'IRPEF cambierà volto, 3 aliquote di base del 20, 30 e 40% contro le 5 attuali, come era stato anticipato nei giorni scorsi, finanziate dalla graduale opzionale revisione delle aliquote IVA, tenendo conto degli effetti inflazionistici prodotti da un aumento e dal riordino delle agevolazioni fiscali. Insomma, nel testo di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri si conferma la graduale abolizione dell'IRAP, con prioritaria esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro, l'introduzione di un'imposta sui servizi che accorperà l'imposta di registro, le ipotecarie e i catastali, il bollo, la tassa sulle concessioni governative e quella sui contratti di borsa, l'imposta sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti. La struttura fiscale, racconta Pesole, sarà dunque in sostanza assicurata da 5 grandi imposte: IRPEF, IRES, imposta sui servizi, IVA e IRAP, fino alla sua abolizione. Tutti i dettagli comunque a pagina 7, come ci sono i dettagli appunto sull'ICE, l'Istituto per il Commercio Estero, la rete estera che passa alla Farnesina. Il Sole fa notare come è stata richiesta da Confindustria all'Assise di Bergamo, passa dunque alla Farnesina dallo sviluppo economico, e questo è stato fonte di diatriba politica appunto tra i due ministri coinvolti. Come detto, c'è anche una novità per quel che riguarda gli ordini professionali. A pagina 13 del Sole: avvocati senza esame di Stato, la liberalizzazione delle professioni esce definitivamente dal decreto legge sulla manovra, ma rischia di rientrare sotto forma di proposta di legge delega concepita dal Ministero dell'Economia, con effetti ben più dirompenti per ordini e iscritti. Questa è una delle novità più importanti: si prevede per avvocati e commercialisti l'accesso previo tirocinio, ma senza dover superare un esame di Stato. Questo è il succo delle liberalizzazioni. Comunque, questi sono alcuni dei dettagli, poi i dettagli li trovate molto sui giornali, il Sole 24 Ore appunto in particolare vi dedica tante pagine, il giornale punta invece su che cosa come titolo di prima pagina, su quest'altra novità, quella cioè dei detassati giovani imprenditori, questo è il titolo di prima pagina, vale a dire l'imposta forfettaria al 5% nei prossimi 5 anni per le società fondate dagli under 35, ne scrive il vice direttore del giornale Nicola Porro in prima pagina. Insomma, ci sono gli aspetti tecnici, ci sono anche gli aspetti politici. Ho intanto le reazioni secondo i retroscena della politica, un po' ovunque, sia su Repubblica, La Stampa e Libero, è che Berlusconi su Repubblica è dato per abbacchiato. Ha seguito i lavori del Consiglio dei Ministri con l'entusiasmo di un impiegato al lunedì mattina. Non la sento mia questa manovra, manca il timbro del sogno. Questo avrebbe detto Berlusconi. Per La Stampa, Ugo Magri, è un po' così, il resoconto è lo stesso. Berlusconi che privatamente dice questa manovra, ringraziando Giulio Tremonti per la pazienza dimostrata, è una manovra che non sento mia. Ha vestito i panni che dovevano essere del Premier, in privato però si dice deluso, in questa manovra manca il timbro del sogno. Ecco questa frase che torna anche sulla stampa, io non l'avrei fatta così. Anche se Ugo Magri racconta di un Berlusconi la cui verità crudele, narrata nelle segrete stanze, è quella di un Premier evaporato, distratto, addormentato spesso in senso tecnico. Capita con una frequenza che nei fedelissimi allarma, fa quasi tenerezza, Berlusconi con gli occhi chiusi, la testa appoggiata sul mento, durante il vertice a Palazzo Grazioli di martedì, poi l'altro ieri nella riunione a Montecitorio dopo la bocciatura del decreto comunitario, ancora ieri semi assopito a tratti nell'incontro con regioni ed enti locali sui rifiuti in Campania. Insomma, un Berlusconi stanco, con lo stesso Berlusconi che avrebbe detto questa battuta, ha detto questa battuta: sono stanco e vecchio, cercatevene un altro. Fa notare Ugo Magri, forse l'avrà fatto con la civetteria di chi si vuol sentir dire no, sei importante, devi rimanere ancora con noi. Sta di fatto che questo è. Oh, cari ascoltatori, adesso vi dovete mettere comodi, dovete prendervela con leggerezza, perché questo è l'unico modo per affrontare questa cosa, e cioè la questione dei tagli alla politica, i costi della politica. Perché c'è tutto in questa manovra, di tutto, di più, ma non Italia i costi della politica, o non come annunciato, perché per quelli si è deciso, dopo una serie di riunioni, interruzioni eccetera, si faranno, ma dalla prossima legislatura, no? Sempre dalla prossima legislatura. Il Foglio in prima pagina d'altronde racconta: la pugnalata era dietro l'angolo. Il governo ha discusso di tutto. Intorno alle 19 si è dovuto interrompere il Consiglio dei Ministri per deviare il tema dei costi della politica su un tavolo tecnico. Non è un mistero che deputati e senatori, soprattutto quelli alla prima legislatura, e che quindi aggiungo io non otterrebbero il vitalizio se venisse tagliato il vitalizio dal futuro, siano da giorni sulle barricate per bloccare la scure tremontiana, la cancellazione dei vitalizi. Erano talmente arrabbiati che avrebbero pugnalato Tremonti sull'atrio del Senato come Cesare, ironizza un sottosegretario del PDL. E vedete qua il titolo di prima pagina di Libero: la casta rinvia i tagli. C'è Mattias Mainiero che ne fa l'editoriale, poi a pagina 3 racconta così: allora, si è discusso e tutto è filato liscio sulle aliquote fiscali, sugli statali, sulla cultura, sull'ICE. Poi è accaduto questo: appena si è parlato dei costi della politica, si è dovuto interrompere il Consiglio dei Ministri, perché i parlamentari si sono infuriati. Il Consiglio dei Ministri è stato costretto a sospendere i lavori per approfondire la questione. Pensate un po', racconta Mattias Mainiero, ve lo diciamo in un altro modo: quando si è trattato di intervenire sul nostro futuro, tutto liscio e normale, aumenta qui, innalza là, tanto a pagare saranno i cittadini. Quando invece sul tavolo è arrivato il delicato tema del portafoglio dei politici, dei loro stipendi, dei loro benefit, delle loro prebende, ecco la riunione, l'approfondimento, si presume anche le animate discussioni. Pensate un po', la speculazione internazionale è pronta ad aggredirci, basta un passo falso e Moody's e Standard & Poor's possono scatenare il finimondo, viaggiamo come acrobati sul filo del rischio, di qua i paesi periferici, la speculazione, lo spread, di là la salvezza e i politici animatamente discutono di cacchi personali. Una simbolica inezia rispetto alla manovra globale. Così Mattias Mainiero su Libero, ma anche il Corriere, su Italia, la politica, lite e mediazione restano, ma simbolici, simbolici. Si è parlato molto, pare il ministro Rotondi, scatenatissimo da giorni su questo, in Consiglio dei Ministri ha detto basta, ha citato varie volte la casta raccontata da Stella e Rizzo. Sergio Rizzo sarà nostro ospite alle 8.30, gli chiederemo che effetto e che emozione gli fa essere citato spesso in Consiglio dei Ministri. Rotondi a dire non è vero, basta questi tagli, basta l'attacco alla casta, ancora ha tirato fuori la questione dello stipendio. In Consiglio dei Ministri tolti 4.000 euro per i portaborsa, i 4.000 di rimborso ne restano solo 4.000, solo 4.000, ha detto Rotondi, molto meno di quanto prendono i dirigenti. E poi ha detto questa frase, i parlamentari alla fine sono dei poveracci che vivono in alberghi medi, mangiano male e vengono rimproverati dalle mogli. Quando lavoravi allo studio campavamo meglio. Lo so, non si dice, ma io adoro l'impopolarità. Così ha detto Rotondi. E allora, prima del traffico, voglio dare un plauso simbolico anche da Pietro Lacorte. Sì, lo convolgo anche lui. Un plauso simbolico al sindaco di Garlasco, perché ci sono sempre notizie negative. Guardate qua, si dice la casta, la casta. Al Quotidiano Nazionale il sindaco di Garlasco lo aveva promesso in campagna elettorale e dice devolvo il mio stipendio ai servizi sociali. Il nuovo sindaco lavorerà gratis, è stato di parola e non appena è stato eletto il sindaco Pietro Farina del Popolo della Libertà, primo cittadino di Garlasco che aveva detto se sarò eletto devolverò il mio stipendio a chi è in difficoltà. Avranno detto la classica butad per farsi eleggere, appena è stato eletto lo ha fatto e quindi un grande applauso al sindaco di Garlasco. Non tutti sono della casta, com'è quella di Rotondi? I parlamentari sono dei poveracci che vivono in alberghi medi e mangiano male e vengono rimproverati dalle mogli. Il traffico. In primo piano. La questione rifiuti è stata anche affrontata dal Consiglio dei Ministri. Qui c'è la spaccatura perché la Lega si è opposta, ha fatto mettere il suo categorico no ai rifiuti di Napoli nelle regioni se non quelle limitrofe. Il titolo della Padania è emblematico. Niente rifiuti nelle regioni della Lega. Mentre, che dire, passiamo, abbandoniamo la politica per parlare, ma no, della politica due nuove cose veloci. La prima è che oggi c'è gli Stati Generali del Popolo della Libertà e Libero mette una notizia curiosa. Caccia agli evasori nel Popolo della Libertà, il 40% non paga le quote. Marco Gorra ne parla a pagina 6, cioè dal bilancio del partito i parlamentari, ma anche quelli eletti negli enti locali, non pagano le quote al loro partito, un ammanco di quasi 3 milioni di euro che fa irritare molto il partito stesso, i vertici del partito. Il 28% dei parlamentari o degli europarlamentari ha posizioni arretrate, cioè versare la quota annuale al partito. Non pagano. Come mai? Ma uno è nel partito e non paga neanche la quota del partito. Ma sono cose veramente che... Vabbè, passiamo invece alla questione di un'inchiesta, l'inchiesta per l'arresto dell'ex di un esponente dell'ENAC, anche ex non parlamentare, ex appartenente al Partito Democratico, Pronzato. Ci sono particolari nuovi, il Corriere ma anche Repubblica. Dal Corriere, i voli regalati ai politici dall'imprenditore in cella ad Alema, 5 passaggi. L'indagine è quella sugli appalti pubblici favoriti da Vincenzo Morichini. Ora spuntano anche dei voli privati offerti a manager e politici. Tra questi voli privati, 5 al presidente del Copasir Massimo D'Alema. Il suo staff non nega, è vero, sono stati fatti 5 passaggi privati di una compagnia, la Rotkopf Aviation Italia, ma per motivi di lavoro. E questa inchiesta rischia insomma di coinvolgere e di allargarsi a macchia d'olio, questo almeno raccontano i giornali. Per quel che riguarda invece la questione dei contratti, voglio registrare sul Sole 24 Ore c'è stato questo botta e risposta sempre sul tema Fiat Confindustria dopo la firma congiunta sulla contrattazione tra Confindustria e CGIL CISL e UIL, le polemiche certo anche all'interno di una parte della CGIL con la FIOM che si smarca. Ora però sull'intesa contratti c'è anche il tema Fiat, con una lettera l'amministratore delegato Marchionne ha ribadito l'intesa di grande rilievo, ma senza ulteriori passi Fiat e Fiat Industrial saranno costrette a uscire da Confindustria da gennaio 2012. A stretto giro la risposta del presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, la replica, i ringraziamenti per l'apprezzamento sulla firma, ma se Fiat non si sente garantita serve una legge con effetto retroattivo che non è disponibilità di Confindustria. Insomma, il botta e risposta sui contratti anche per la stampa, due pagine, Fiat a Confindustria usciamo a fine anno, Marchionne l'accordo non basta, Marcegaglia va bene così, non possiamo ridiscutere ciò che abbiamo già deciso. Insomma, la questione rimane molto molto calda, quella dei rapporti tra Fiat e Confindustria, come scrivono i giornali. Per quel che riguarda invece un'altra inchiesta che davvero è incredibile, che prende molte pagine di cronaca dei giornali, è quella che coinvolge il capo della Mobile a Napoli, Vittorio Pisani, colui che poco tempo fa era il poliziotto più famoso d'Italia, aveva appena arrestato il super latitante della camorra casalese Antonio Iovine. E ora le accuse su lui sono pesantissime. Clan, accuse al capo della Mobile. Il giudice dice lasci la città. Avrebbe favorito dei camorristi. E sono delle accuse, cioè, che lasciano sgomenti a leggere. Ci sono anche le intercettazioni. Il procuratore capo di Napoli, Lepori, dice forse lo ha fatto per amicizia, ma davvero ha fatto un qualcosa che l'ha fatta grossa. Questo dice. Praticamente, secondo le intercettazioni, frequentava il ristorante dove era di casa Vittorio di Pisani, nel quale aveva un'amicizia con un esponente del clan Lo Russo, e l'accusa è aveva informato delle indagini in corso nei confronti di questo clan esponenti del clan stesso. Il Viminale, il Ministero degli Interni, lo difende, fa quadrato nei confronti del super poliziotto, la stima del ministro Maroni, il sottosegretario Mantovano dice siamo perplessi per questa indagine. C'è anche il magistrato Raffaele Cantone, uno dei magistrati che più ha combattuto i casalesi, che a Repubblica in un'intervista dice massimo rispetto per l'inchiesta, staremo a vedere, quello che io so è che lo ritengo un eccezionale professionista, un ottimo conoscitore della criminalità organizzata, un grande poliziotto, per me era il migliore d'Italia. Certo, ci sono anche le intercettazioni del boss pentito che dice mi proteggeva, io lo aiutavo a catturare latitanti, gli regalavo anche vino francese, casse di champagne. Insomma, una vicenda molto molto intricata che coinvolge anche se non indagato, il capitano, ex capitano della Nazionale Fabio Cannavaro, che aveva delle quote in un locale che è stato sequestrato, e sta di fatto che la vicenda davvero è molto molto inquietante per la verità. Capitolo TV, c'è molto se volete di TV, la 7 rompe con Santoro che su Il Fatto Quotidiano, intervistato da Marco Travaglio e Silvia Truzzi a pagina 3, dice, racconta tutta la vicenda, hanno iniziato a mettermi dei paletti, hanno iniziato dopo che l'accordo era quasi firmato a prendere delle scuse sulla responsabilità legale eccetera. Insomma, Santoro in questa lunga intervista di un'intera pagina dice il problema è l'intervento esterno che ha un nome e un cognome, il conflitto di interessi politico e industriale, un'azienda Mediaset occupa il governo, il Parlamento, le autorità, la RAI e piega tutto al proprio tornaconto. E poi Santoro dice non sono ancora ex dipendente della RAI, se il CDA rivuole anno zero lo dica, io straccio la transazione e resto qui. Stai a vedere che Santoro rimane in Rai dopo tutto sto casino. Infine voglio chiudere con quello che è successo nelle prove dell'Otello a Verona. L'attore Alessandro Haber, 64 anni, famoso, celebre, forse l'avete presente anche il volto, ha fatto molto film, ha fatto molti teatri. Bacio in scena, Haber licenziato, così sul Corriere. Mentre la stampa, Haber cacciato da Otello, molestava Lucia Lavia, anche lei figlia d'arte. 19 anni, pare che un bacio non previsto, Haber ha cercato di baciarla in scena, forse è andato un po' oltre, ha voluto baciarla un po' di più. È finita schiaffi, insulti, spintoni. Lavia che dice: toglimi non le mani di dosso, ma le labbra di dosso. Schiaffi, insulti. Haber cacciato dalla compagnia. E questo è. Bacio in scena, Haber licenziato, oppure cacciato da Otello, molestava Lucia Lavia. Boh. Ci fermiamo qui con il giornale radio.